A bordo campo di Dario Ricci. Torniamo sulle pendici del Nanga Parbat. Oggi a bordo campo, beh, lo sapete, con quanto affetto, con quanta partecipazione stiamo seguendo la spedizione italo-francese di Daniele Nardi ed Elisabeth Revol, che stanno cercando di conquistare per la prima volta nella storia in inverno la regina delle montagne, oppure quella che è anche denominata la montagna mangia uomini, 8125 metri in Pakistan. E allora colleghiamoci subito in diretta col campo base del Nanga Parbat, quota 4200 su per giù, metro più metro meno, vero Daniele Nardi? Ben ritrovato. Ben ritrovato Dario, ben ritrovato a tutti quanti voi. Sì, siamo a 4200 metri circa al campo base del Nanga Parbat e ce l'abbiamo lì sulla testa, ma è completamente coperto dalle nuvole e ci sta facendo degli begli scherzetti. Eh sì, possiamo dire che almeno per questa volta ha vinto ancora la regina delle montagne. Va detto, no, non si è concessa. No, purtroppo non si è concessa quest'anno. Diciamo che il nostro tentativo è stato, come si dice, una sorta di voler vedere se questa montagna avesse voglia di concedersi, di lasciare uno spiraglio per provare questa salita. L'abbiamo fatto con tutta la nostra passione, con tutta la nostra forza, ma un'altra volta siamo arrivati sullo sperone Mammeri a circa 6.000 metri e il vento proprio ha cambiato completamente, le previsioni meteorologiche sono completamente non azzeccate e abbiamo dovuto aspettare un giorno a 6.000 metri per cercare di capire se magari era un cambiamento passeggero, invece no, poi è arrivato definitivamente il brutto tempo che ci ha messo veramente in difficoltà poi per scendere da quello sperone che è già difficile da salire, immaginate quanto sia poi difficile invece scenderlo. Eh sì, tra l'altro insomma vale la pena ricordarlo ai nostri amici ascoltatori, non è che uno a 6.000 metri sul Nanga Parbat si mette a raccogliere le margherite, cioè sì. No. Si sta in una tendina con venti intorno tra i 70 e i 100 km all'ora, no? Eh sì, il problema grosso è quello, il fatto che quando a 6.000 metri su questo speroncino dove hai pochi metri quadrati per piazzare la tenda e sei in bilico verso il vuoto e arrivano venti così forti e non calcolati, ci mettono veramente in condizioni di grande difficoltà, intanto perché il vento potrebbe tranquillamente prendere la tenda e strapparla diciamo dai suoi ancoraggi che non sono mai perfetti in quelle difficoltà, e poi soprattutto perché il nostro corpo, che è un corpo umano che funziona ad ossigeno a 6.000 metri, fa fatica a scaldarsi perché c'è poco ossigeno, c'è rarefazione dell'ossigeno ad alta quota, per cui che cosa accade? Che già la temperatura è molto bassa, sarà intorno ai 25-30 gradi sotto zero, ci si mette anche l'effetto windchill del vento che abbassa la temperatura percepita dal corpo umano più l'ossigeno che non ci permette di scaldarci, arriviamo a temperature veramente molto basse, per cui anche in quelle condizioni fissare una corda, mettere gli ancoraggi e potersi calare da una parete così verticale, ghiacciata, piena di rocce, diventa veramente molto complesso. Io purtroppo facendo queste manovre ho avuto un congelamento a un paio di dita delle mani e dei piedi che però erano purtroppo necessari per poter, come si dice, fare le corde doppie e scendere verso valle. Cioè abbiamo passato veramente dei momenti piuttosto critici che però abbiamo affrontato credo con grande professionalità, accettando il fatto che la montagna in quel momento non ci voleva e quindi abbiamo messo tutto noi stessi per scendere di nuovo lo sprone Mammeri e poi andare verso il campo base. Ancora una volta in qualche modo è decisivo il rapporto che voi alpinisti estremi riuscite a costruire con la montagna, no? C'è questo dialogo di cui Daniele ormai abbiamo parlato spesso, ma ancora una volta bisogna saper leggere i segni che la montagna vi invia, e tornare giù è già un grandissimo risultato oltre quello che avete conseguito sotto il profilo alpinistico. Dal punto di vista alpinistico io sono molto soddisfatto perché ribadisco, lo sperone Mammeri fu individuato da Albert Frederick Mammeri, ideatore dello stile alpino, nel 1895, fu un precursore assoluto, lui fu il primo in assoluto che provò a scalare una montagna 8.000 e proprio qui al Nanga Parbat, purtroppo lui all'epoca perse la vita proprio in questo tentativo, ha individuato questo sperone che poi nell'arco di 100 e più anni non è mai stato tentato di salirlo né in estiva né in invernale. Quello che abbiamo provato a fare noi è a scalare il Nanga Parbat in prima invernale, ma anche attraverso questo sperone, e quindi aprendo o indicando, diciamo, una via nuova per salire questa montagna. In questo mese e mezzo che siamo stati qui a Campobase abbiamo cercato di costruire questo rapporto con la montagna, sia tra me e Elisabeth, ma anche cercare di capire che cos'è l'inverno, perché purtroppo per noi non abbiamo altre esperienze nel passato che ci potessero dire come comportarci in queste condizioni. Per cui è stato uno scoprire la montagna per me per la seconda volta, ma per la prima volta d'inverno, e piano piano cercare di capirla e salirla sempre più in alto. E siamo arrivati nel primo tentativo a 6.450 metri, completando completamente la parte tecnicamente più impegnativa della salita, e questo ci ha reso felicissimi. Il problema è che la parte più alta, quei 1700 metri che mancavano, richiedono comunque un tempo buono che questa montagna in quest'inverno non ci ha voluto concedere, per cui torniamo a casa ricchi, soddisfatti, pieni di emozioni, dopo aver imparato tantissimo, pronti magari per affrontare un nuovo inverno, ma è il momento questo di chiudere i bagagli e tornare a casa, perché è chiaro che ogni persona ha un limite, il nostro limite anche di sopportazione di queste condizioni estreme ha raggiunto, diciamo, il suo limite per poi tornare a casa, insomma. Ecco, rassicuraci sulle tue condizioni fisiche, parlavi del congelamento di alcune dita, come ti stai curando? Perché comunque anche a 4200 metri non immaginatevi che ci siano gli chalet con i fiorellini sul balcone, eh? No, adesso tra l'altro queste giornate sono particolarmente fredde, siamo tra i 18 e i 20 gradi sotto zero qui al Campobase, però ecco, io devo ringraziare l'organizzazione di Ali Mohammed con l'Adventure Guide Pakistan, che veramente in tempo record ha chiamato i portatori che dislocheranno il campo base, ci porteranno giù verso Islamabad, perché chiaramente ho bisogno di cure mediche, soprattutto per un dito, in particolare l'indice della mano destra, che ha, diciamo, il congelamento un pochettino più grave. Non voglio assolutamente spaventare i nostri, insomma, radioascoltatori, non è gravissimo, però ecco, iniziare a vedere le proprie mani bluastre non è il massimo. Non è il massimo, quindi voglio andare via dal campo base, perché sono più importanti di qualsiasi altra cosa in questo momento, anche perché, ribadisco, mi sento soddisfatto di averci provato fino in fondo, poi chiaramente questo sarebbe stato un world record, se fosse stato facile l'avrebbero fatto altre persone, quindi ringrazio loro che mi sono vicini. Dopo domani dovrebbero arrivare, spero, i portatori, se non nevica eccessivamente lungo il sentiero, e quindi credo che fra il 20 e il 21 febbraio potrei essere in Italia, nelle mani delle cure di un carissimo amico, Mimmo Di Bartolomeo, che è un medico esperto di medicina di montagna con cui sono in contatto quotidianamente, che mi sta curando a distanza in questo momento, quindi mi sento abbastanza tranquillo di poter recuperare, insomma, in tempi ragionevoli. Senti, parlaci ancora del tuo rapporto con Elisabeth. Hai trovato una compagna di cordata che è stata veramente importante in questi due tentativi. Fra me e Elisabeth si è creato un rapporto professionale, ma anche di amicizia, in modo così spontaneo e veloce che veramente a volte rimango basito anch'io. Ci siamo trovati d'accordo sullo stile, sui pensieri rispetto alla montagna, sai, a volte abbiamo parlato anche di comunicazione sì, comunicazione no, stile leggero, e siamo riusciti comunque a mettere insieme uno stile pulito per scalare le montagne, ma concedendoci qualche lusso da un punto di vista sia di comunicazione con la gente che ci seguiva, ma anche proprio qualche piccolo cosa in più, insomma, organizzativa al Campobase, che ci ha permesso di vivere questa avventura. Sia io che lei ci siamo in un certo senso salvati la vita a vicenda, perché lei è caduta in un crepaccio e io l'ho tirata fuori. A me è capitato di congelare un dito e lei mi è venuta incontro e ha fatto delle cose al posto mio. Cioè, si è creato veramente un tale rapporto di montagna che la ricchezza di esperienze di questa spedizione è rimasta sia a me che a lei, e quindi ci è rimasto talmente naturale dire ok, basta, torniamo a casa e magari chissà in futuro progetteremo qualcosa di nuovo. Certamente nei miei 20 anni di carriera credo che Elisabeth Revol sia una delle più forti ragazze alpiniste esistente oggi al mondo, veramente una ragazza in gamba, forte, tenace, con grandi competenze tecniche sulla montagna, e questo chiaro mi ha fatto molto gioco per poter tentare come volevo io, sulla strada che volevo io, questa grandissima montagna, e poi la vetta sarà per un'altra volta. E allora, sfida rimandata, ma grande esperienza alpinistica acquisita per Daniele Nardi. Tra l'altro, per chi volesse vedere tutte le informazioni su questa avventura, beh, vi rimandiamo a www.danielenardi.org, il blog di Daniele. Trovate anche una piccola sorpresa in preparazione, ma non la svegliamo, Daniele, non è il caso, ti rivolgiamo qui a livello del mare. Nel frattempo ti sei perso il Festival di Sanremo e un papa si è dimesso, quindi sbrigati a tornare, perché anche noi ci abbiamo qualcosina da raccontarti qui a livello del mare. Ma mi sembra che rientro in tempo per le votazioni, mi sembra aver capito, anche se non sono sempre connesso. Sì, rientri in tempo, però per carità, per par condicio non possiamo dire qual è l'umore dei potenziali elettori pakistani. Va bene, comunque sul mio sito, su danielenardi.org, se guardate appena un po' a destra c'è qualcosa in uscita di molto carino che ci racconta, mettiamola così e poi la sfoglieremo insieme. Allora, grazie a Daniele Nardi, complimenti, lo lasciamo al riposo, al campo base del Nanga Parbat, e poi ti aspettiamo chiaramente presto qui in studio a bordo campo qui a Radio 24, Daniele. Grazie a te Dario e grazie a tutti i nostri radioascoltatori di bordo campo, a prestissimo. A bordo campo. Gruppo in bronzo di lottatori proveniente dall'Egitto, età romana. Si osserva la somiglianza delle prese degli attuali lottatori con quelle degli antichi atleti. Atene, Museo Archeologico Nazionale, collezione Dimitriadi. Sto sfogliando qui a bordo campo un volumetto scritto da una mia amica greca, Olimpia Vicatu. Il titolo è Olimpia, il sito archeologico e musei. Quella che vi ho descritto è appunto, che vi ho letto, è la descrizione di questa scena di lotta. Come dire che parlare di Olimpiadi, parlare di Olimpia e parlare della lotta è praticamente un tutt'uno, perché la lotta è uno degli sport e una delle discipline che più rappresentano il senso stesso del confronto fra uomo e uomo e dello spirito olimpico. Ebbene, proprio in questi giorni da Losanna è arrivata invece la predecisione, perché ancora non si tratta di decisione definitiva, ma che insomma fa pensare che possa essere poi quella definitiva da parte del Comitato Olimpico Internazionale, di escludere nelle edizioni dei giochi del 2020 proprio la lotta dal consesso delle discipline del programma olimpico. E beh, noi proprio di questo argomento vogliamo parlare oggi con Matteo Pellicone, presidente della Federazione Italiana Lotta, Judo, Karate e Arti Marziali, di fatto la FILCAM. Presidente, benvenuto a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie, buonasera a tutti. Tra l'altro, Presidente, la troviamo qui in diretta da Phuket, no? Se non sbaglio, Thailandia, dove lei, anche essendo vicepresidente della Federazione Internazionale, è impegnato nel congresso mondiale. È arrivata questa notizia che è un vero e proprio fulmine a ciel sereno, doccia fredda, usiamo il luogo comune più comodo, ma insomma, del tutto inaspettata, direi, no? Direi che è proprio una batosta inaspettata. Io che ha preso una decisione che quando mi è stata riferita io ero incredulo e poi sorpreso e poi arrabbiato. Si snaturano le Olimpiadi, credo dopo questa esclusione della lotta, ammesso che è una proposta che dovrà essere approvata in Argentina a settembre. Eh sì, nell'ambito del congresso che poi assegnerà e definirà la sede dei giochi del 2020, no? Esatto. Quindi ammesso che anche il congresso si pronuncerà in questi termini, è veramente un'assurdità, perché continuare a parlare di Olimpiadi senza la lotta, e direi senza l'atletica e il pugilato, che sono le tre discipline che da sempre fanno parte dei giochi olimpici, cioè per mille anni dei giochi olimpici antichi, per cento anni dei giochi olimpici moderni, per più di cento anni dei giochi olimpici moderni, avere escluso una di queste tre discipline veramente è qualcosa di inaudito. Quali sono stati i punti deboli della vostra disciplina a spingere il CIO a questa proposta shock? Ma guardi, qualche punto debole la nostra disciplina ce l'ha, però io credo e se andiamo ad analizzare le 25 discipline che sono rimaste all'interno di questo programma di base, sono certo che la lotta non è la 26esima. Per tante ragioni, io ho visto tante e tante Olimpiadi, conosco bene questo mondo, non posso credere che la lotta sia l'ultima delle discipline che sono state monitorate. Allora, se il CIO parla di trasparenza, è bene che tutti i dati che ha in possesso il CIO e attraverso questi dati poi la Commissione, come dice il portavoce, ha preso questa decisione. Io ritengo che questi dati, questo sondaggio, tutti i dati che hanno raccolto debbano essere pubblicizzati, perché solo così ci si può convincere delle cose. Io di questo non sono assolutamente convinto. Qualcosa non ha funzionato all'interno della Commissione. Ecco, qualcuno ha detto pure, qualche collega che ha seguito da vicino i lavori di Losanna, ha detto: quelli della lotta stanno tutti a Phuket in Thailandia a fare il congresso mondiale, e allora a Losanna non c'era nessun rappresentante, gli hanno fatto le scarpe. Insomma, si parla anche di politica sportiva non di altissimo livello, ma spicciola, concreta. Insomma, come mai non avete mantenuto una vedetta lì a Losanna? Ma lì, premesso che il nostro presidente è svizzero e abita a pochi chilometri da Losanna, è che credo che il nostro presidente non ha mai fatto la minima ipotesi che a Losanna in questi giorni si poteva discutere della lotta. Cioè, sicuramente avrà valutato che altre discipline forse correvano il pericolo di essere escluse, e giammai la lotta, ma per tante ragioni, a parte quelle che dicevo prima. Ma come si può continuare a parlare di spirito olimpico quando una delle discipline veramente base di questi giochi viene estromessa? E poi voglio aggiungere ancora un fatto estremamente importante, che dimostra anche la pochezza politica di questa decisione. Sono in ballo per l'assegnazione della sede olimpica Tokyo, Istanbul, Madrid. Ebbene, Tokyo a Londra ha vinto 4 medaglie olimpiche nella lotta, cioè più delle metà delle medaglie olimpiche vinte dal Giappone sono state vinte nella lotta. Come si può pensare che Tokyo, una delle candidate, può fare a meno di avere la lotta nel programma olimpico? Consideriamo pure che in Turchia Istanbul la lotta è quasi sport nazionale, no? A Istanbul è sport nazionale. I 2/3 delle medaglie che la Turchia ha vinto in tutte le discipline da quando sono dai primi giochi olimpici li ha vinte nella lotta. Allora, come si possono mortificare questi due paesi che sono in corsa per organizzare i giochi olimpici? Ecco, voglio dire, veramente c'è pochezza politica. Questo, secondo me, veramente io credo che il Comitato Olimpico è allo sbando, cioè che non vi è una guida saggia come vi deve essere. Presidente, mi scusi, ecco, la mia... No, ma sì, questa foga trasmette anche la passione per l'argomento in oggetto. Però, dicevamo, anche la lotta ha i suoi limiti. Tante categorie di peso, diciamo, difficoltà a catalizzare un certo tipo di interesse anche da parte delle TV, da parte del pubblico. Lei stesso appartiene un po' all'ala riformatrice, no? Che in qualche modo era disposta ed è disposta in qualche modo a rivedere la tradizione per rendere questo sport un pochino più appetibile. Questo è vero, sono diversi anni che io... Ecco, andiamo, ci aiuti a capire i tre punti fondamentali da modificare, ecco. Ma i tre punti, io credo, il primo punto che renderebbe la lotta anche più facile da poter diffondere nel mondo. Noi abbiamo due stili, obiettivamente possono essere questi due stili fusi insieme, cioè fare un'unica disciplina che poi, chiamandosi greco-romana fin dall'antichità, venivano usate determinate tecniche che oggi nella greco-romana non vengono più usate. Quindi si sarebbe ancora maggiormente in sintonia con la lotta che veniva fatta nel periodo delle Olimpiadi antiche. Quindi voglio dire, è il primo passo. E poi semplificare, ridurre anche le giornate di gara, che sono troppe. Quindi c'è tutta una serie di cose che ci si può mettere intorno a un tavolo e discutere. Però voglio sottolineare una cosa. A Londra, io sono stato a Londra, ho seguito le gare Cioè, il palazzetto era sempre pieno e non credo, come dicevo, ai risultati di questa indagine che ha fatto il CIO, e vorrei vedere le risultanze a cui sono arrivate. Prendere una decisione, e come è stata presa, 15 persone che sono convinto che di sport ne sanno poco, che si riuniscono e con voto segreto incominciano a eliminare una disciplina dall'altra, io credo che sia veramente un'assurdità, perché a quel punto valgono di più le pressioni che vengono fatte su queste 15 persone. Allora, insomma, alla fine è andata in scena un'edizione postmoderna di un reality Olimpia. Presidente Bellicone, al di là delle mie battutacce, possibilità concrete di cambiare questa decisione a settembre prossimo, settembre 2013, a Buenos Aires? Io credo che forse possiamo recuperare la cosa se i membri del CIO di tutti i paesi, dei singoli paesi, o una buona parte, ci possono dare una mano d'aiuto per arrivare a settembre e arrivare in condizioni un po' diverse da come forse siamo andati giorni fa, l'altro giorno a Losanna. E allora, tra Phuket e Losanna si combatte la battaglia per mantenere la lotta nel consesso delle grandi discipline olimpiche, e è giusto che la combattiate, altrimenti che lottatori sareste. Grazie al presidente della FILCAM e vicepresidente della Federazione Internazionale Lotta, Matteo Pellicone, per essere stato nostro ospite. Buonasera a tutti e speriamo bene. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulla nostra pagina web. L'appuntamento, come sempre, per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci. We'll be right back.